Il genio del lago. C'era una volta una vecchia coppia di coniugi che viveva in una piccola capanna sperduta in una terra lontana. Erano poverissimi, non possedevano né pecore né cavalli o capre, non avevano nemmeno un'arnia da cui ricavare un po' di miele. Perciò l'unico bene che lasciarono al figlio Avram alla loro morte furono poche matasse di lino. Avram le prese, si diresse verso il lago e lì giunto le bagnò nell'acqua, sedendosi poi a intrecciare una corda. Mentre stava lavorando, emerse dalla profondità delle acque il temibile genio del lago e gli si piantò davanti. Avram si spaventò, ma non lo dette a vedere. «Cosa stai facendo lì?» tuonò il genio della lunga barba verde. «Intreccio una corda e quando sarà pronta appenderò il tuo lago alle nuvole». Un brivido di paura corse giù per la schiena del genio all'udire quella risposta tanto strana e coraggiosa. «No, no ragazzo, non toccare il mio lago, ti prego. Esaudirò ogni tuo desiderio, ma lascia in pace le mie acque». Avram pensò in fretta cosa avrebbe potuto chiedere al genio. Si ricordò che il lago era famoso perché dei bellissimi cavalli selvaggi venivano lì ad abbeverarsi e decise: «Dammi il tuo cavallo più bello e io ti prometto che non toccherò più il lago». «Oh no, quei cavalli sono il simbolo della mia fame e della mia forza», replicò costernato il genio. «Questo non te lo posso concedere». «Come vuoi», replicò Avram. «Vorrà dire che dovrò proprio appendere il tuo lago al cielo». Il genio rimase in silenzio per un po', perché sospettava che sotto ci fosse un imbroglio. E quando parlò disse: «Senti un po', ragazzo. Se sei così forte da poter appendere il mio lago, non rifiuterai una prova di forza fra noi due. Correremo intorno al lago e se tu vinci, prometto di esaudire il tuo desiderio». «Accetto», rispose Avram, «ma a una condizione. Là, fra i cespugli, sta dormendo mio fratello minore. Solo se riesci a battere lui, correrò con te». Il gigante si incamminò verso i cespugli, dove dormiva una giovane lepre che, spaventata dal rumore, gli passò davanti correndo velocissima. Il genio del lago si slanciò dietro di lei, ma non riuscì a raggiungerla, malgrado i suoi sforzi. Schiumante di rabbia, gridò ad Avram: «Fatti sotto! Faremo la lotta noi due e vincerò io questa volta». «Ma prima dovrai batterti con il mio vecchio nonno», tergiversò l'astuto Avram. «Sta facendo un pisolino in quella buca laggiù e siccome hai sonno duro, per svegliarlo dovrai dargli un colpo in testa. Se riuscirai a farlo cadere, lotterò con te». Il genio del lago corse dove gli aveva detto il ragazzo e menò un gran colpo di bastone in testa a un orso bruno che stava sonnecchiando nella buca. La bestia non gradì affatto il trattamento. Si drizzò sulle zampe e, afferrato il genio, lo scaraventò per terra. Quello tornò zoppicando da Avram e si lagnò: «Accidenti, com'è forte tuo nonno! Non mi rimane fiato per combattere anche con te, ma dammi un'altra opportunità. Vediamo chi di noi due riuscirà a portare la mia cavalla grigia pomellata, la più bella del branco, intorno al lago». «Prova prima tu», disse Avram. Il genio si mise faticosamente la cavalla in spalla e, barcollando sotto il suo peso, fece il giro del lago. Con un ghigno di trionfo la depose al suolo e, voltandosi verso Avram: «Ora tocca a te!» gridò. Avram mise la corda per terra e si diresse verso la cavalla. «È stato facile per te, no? Hai preso la cavalla sulle spalle. Invece io la porterò fra le mie ginocchia. Guarda!» Montò sulla cavalla, la toccò sui fianchi e la spronò al galoppo. Il genio riconobbe di essere stato sconfitto. Accarezzò la cavallina grigia pomellata per l'ultima volta e la consegnò ad Avram. Era un magnifico animale, dalla folta criniera, gambe potenti, orecchie appuntite e un petto poderoso. Avram montò in groppa la bella cavallina e galoppò via, fino a casa.